giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Alle 12, 15 minuti e 15 secondi, ancora un cordiale saluto ad Armando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. In questa edizione le dichiarazioni dei genitori di Giulio Regeni, che hanno visto aumentare le speranze di ottenere verità e giustizia per loro figlio, i preparativi per certi versi problematici della festa di fine anno e per lo sport la bella vittoria di Udinese, Pallacanestro Trieste e momenti difficili per Gesteco Cividale. Il 2023 ha consegnato qualche speranza in più ai genitori di Giulio Regeni di avere verità e giustizia sulla tragica fine di loro figlio. Vi proponiamo le loro dichiarazioni ai microfoni del TG3. Per noi il 2023 è stato un anno importantissimo. Dopo quasi 8 anni, uno sblocco. Nonostante da parte del nostro governo sia stato un anno di intense incontri e strette di mano con Al-Sisi, che però non hanno portato ad alcuna collaborazione. Diversamente dalla politica, la soddisfazione ce l'ha data la giustizia. Noi abbiamo molte aspettative per il 2024 e con noi migliaia e migliaia di cittadini che grazie alla decisione della Consulta, inizio del processo 20 febbraio 2024, hanno ripreso fiducia e speranza nella giustizia. Ci sono nel nostro paese ancora istituzioni che tengono. La giustizia è un faro. Abbiamo anche molte aspettative rispetto alla solidarietà, l'impegno civile e soprattutto rispetto ai diritti umani. Le nostre aspettative si rivolgono anche verso la politica e chi fa affari con l'Egitto. Che ci sia un'inversione di rotta, soprattutto nella vendita delle armi. E vorremmo che le panchine gialle da 113 diventassero 500 e che per uno striscione tolto, come già avvenuto, ne vengano messi altri 200. Il maltempo previsto per questa notte rischia di rovinare la festa, che è già stata rinviata a domani a Udine, Gorizia e Monfalcone, confermate per ora a Trieste e Pordenone, ma si incrociano le dita. Capodanno in piazza sì, ma non stasera. A causa delle ondate di maltempo previste dal tardo pomeriggio, Udine e Gorizia rinunciano ai festeggiamenti. Se ne riparla domani, 1 gennaio, con una serata con concerto alle 21 e i fuochi d'artificio verso le 22:30. Una decisione presa per prudenza, spiega il sindaco di Gorizia, Ziberna, e perché, vista la pioggia, l'afflusso sarebbe stato troppo basso. È invece confermato per il momento il Capodanno in piazza Unità a Trieste, con musica a partire dalle 22:30 e fuochi d'artificio a mezzanotte che partono dal Molo Audace. Va avanti con i festeggiamenti anche Pordenone, come conferma il vice sindaco Parigi. In piazza 20 settembre ci sarà il concerto del sassofonista Sir Waldo Weathers della James Brown Band, ma senza fuochi d'artificio, decisione che la giunta aveva preso già nei giorni scorsi. Fino all'ultimo il maltempo continua a colpire la regione al termine di un anno segnato dai danni causati da grandinate, alluvioni e mareggiate. Il Capodanno in piazza sarà rimandato anche a Monfalcone. Il concerto slitta l'inaugurazione del centro storico prevista tra un mese, mentre a Cividale del Friuli l'intenzione di confermare l'appuntamento per la città friulana, quello di stasera, il primo Capodanno in piazza. Qui il nuovo anno sarà salutato con un concerto che durerà fino all'una. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo alla pagina del tempo, cielo da nuvoloso coperto su pianura costa, da sereno a poco nuvoloso sui monti. Le temperature registrate alle 11, Trieste 10,5 gradi, Gorizia 9,5 gradi, Udine 8,5 gradi, Pordenone 7,5 gradi. Tolmezzo 5,5 gradi, Tarvisio 8, Forni di Sopra 3, Piancavallo 4 gradi, Sappada 0. In quota sull'Ussari 0 gradi, sullo Zoncolan meno 1 grado. Sulla costa Lignano 9 gradi, Grado 10,5. Le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia: oggi pomeriggio avremo cielo coperto con deboli piogge sparse, dalla sera nella notte piogge moderate a ovest e sulla costa, dove soffierà vento da sud sostenuto, abbondanti ad est, specie sulle prealpi giulie, neve oltre 1500 metri sulle prealpi nel Tarvisiano, oltre 1000 metri circa in Carnia verso l'Austria e il Cadore. Nella seconda parte della notte la quota neve si abbasserà fino a 800 metri. Domani mattina rapido miglioramento suggerimento è di iniziare dalla carne, in giornata a bel tempo sui monti, variabile su pianura e costa. Una notizia di cronaca: a Sappada ieri pomeriggio è stato segnalato un escursionista in difficoltà. L'uomo, un 34enne residente in provincia di Ferrara, era rimasto bloccato a quota 1400 metri su dei salti di roccia scendendo dal bivacco ad Amiana del Gobbo. Lì era finito per cercare di raggiungere il cane che aveva con sé, un pastore cecoslovacco scappato verso valle. Il cane era sparito in corrispondenza di alcuni salti di roccia sui quali anche il proprietario si è arrestato. In quel punto in passato si sono verificati diversi incidenti, di cui uno mortale. L'escursionista è stato recuperato in colume con il varicello dell'elisoccorso e condotto a Sappada per un controllo per accertare un'eventuale ipotermia. I soccorritori della stazione di Sappada hanno allora iniziato ad occuparsi di rintracciare il cane, che dalla descrizione del proprietario poteva essere arrivato fino alla base del canale sotto i salti di roccia. Gli uomini del soccorso si sono avvicinati a piedi alla zona e hanno individuato l'animale tra i mughi. L'hanno imbarellato e trasportato a braccia fino alla jeep. Il cane in serie condizioni ed è stato trasportato all'ozzo d'urgenza per la valutazione di un veterinario. Siamo alla pagina dello sport, un'iniezione di fiducia nei propri mezzi e un allungo in classifica dalla zona retrocessione. Questi i primi benefici della vittoria di ieri dell'Udinese allo Stadio Friuli. Il regalo di fine anno a tifosi e società. L'Udinese schianta il Bologna con la forza dei suoi muscoli. Pressing a metà campo che lascia senza fiato la squadra di Thiago Motta. Alla vigilia una sola sconfitta in 9 trasferte. E poi 3 reti per dare equilibrio alla statistica dell'attacco che diventa ora un gol a partita. Ma soprattutto la prima vittoria al Friuli in campionato, fondamentale per festeggiare allungando sulla zona retrocessione. Più 3. Sentiamo Gabriele Cioffi. Sono stati atomici perché non è facile ripartire da zero tutte le volte con delle vittorie sfumate per un secondo. Hanno avuto grande resilienza, mentalità, forza, entusiasmo di ripartire. È stato premiato oggi dove è stata la partita perfetta, ma a livello di prestazioni ne avevamo fatte altre di livello meno gratificate. Il migliore Martin Pagero, 25enne argentino, cresciuto nelle giovanili del Banfield. Hernan Crespo, da allenatore, non ebbe fiducia in lui, è uno dei simboli dell'Udinese targata Cioffi in un centrocampo che va di corsa e che ritrova protagonista anche Sandy Lovric. Siamo contenti, ha funzionato tanto bene, penso che possiamo sempre migliorare, anche dopo una vittoria di 3-0 ci sono cose che dobbiamo e vogliamo migliorare. Però siamo contenti oggi e consapevoli che già da domani siamo concentrati per la prossima partita. E la prossima è un'altra gara in casa con la Lazio, sfida che può rappresentare una svolta per il campionato dell'Udinese. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Basket di A2, Trieste si consola per la bella vittoria di ieri contro Verona, mentre Cividale, sconfitto da Nardò, si interroga su un futuro che si fa incerto. I botti di Capodanno anticipati sono le penetrazioni di Ruzziere, le bombe di Brooks o i rimbalzi decisivi del ruvido Vildera. Trieste batte Verona 88-85, tiene il passo con chi la precede in classifica e, pur non ribaltando la differenza canestre, tiene dietro in classifica di 4 punti virtuali proprio gli scaligeri. Con sempre meno partite da giocare, ne mancano 5, tra cui il derby a Udine del 12 gennaio, un bicchiere mezzo pieno. La vittoria anche stavolta arriva dal talento individuale. In controllo e sopra di 10 a metà secondo periodo, i biancorossi soffrono qualche esperimento di troppo e crollano con il parziale di 23-5 della squadra di Ramagli, mitigato soltanto dalla bomba di Ruzier a fil di sirena. Dopo essere sprofondata nella ripresa, la squadra di Christian trova qualche canestro di Brooks, uno sprazzo di Reyes e l'esperienza di Filloi nel momento giusto. Verona non ne ha più e va sotto, con ancora Ruzier stremato che assieme a Vildera mantiene il vantaggio nel finale. Montagne russe invece per Cividale a Lecce contro Nardò. La squadra di Pillastrini, con Cole in campo di fatto già tagliato, parte bene, accumula 17 punti di vantaggio grazie all'americano, Mastellari e Redivo, ma poi smette di difendere e attaccare come quando una macchina si rompe qualcosa all'improvviso. Berti sbaglia 2 schiacciati impensabili, Nardò replica con un parziale di 19-4 sul finire del secondo quarto. Nella ripresa Smith martella, Miani ha un sussulto che vale il più 8 a 10 minuti dalla fine. 3 bombe di Cole e Miani, imitati dagli avversari che ne mettono complessivamente 5, non consentono la fuga e nel finale non c'è più energia. Cividale resta a secco in attacco negli ultimi 5 giri di lancetta, 91-81 per Nardò, 17 i punti di Mastellari, tutti nel primo tempo. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. nella riserva naturale della Val Cnavata, ultimo appuntamento del 2023. Una passeggiata nella valle che in questo periodo si popola di tantissime specie diverse di uccelli. Guidati da un ornitologo, si imparerà a riconoscere e apprezzare l'importanza che la riserva offre per preservare questa ricca biodiversità. Alle 15, partenza dal centro visite della riserva naturale della Val Cavanata. Era questa l'ultima notizia, ha collaborato in redazione Cristina Polselli, per la parte tecnica Mauro Ciccarelli e Giuliano Pecorari. Da Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.